Mi costringo a cercare forze per reagire, specie quando ogni mia speranza mi dà l'impressione di svanire. Da quando son nato ho imparato bene ad incassare, tengo duro, stringo i denti e non smetto di lottare, perché il mondo gira e se ne sbatte se tu resti indietro. Dunque cerco di risolvere sempre in modo concreto ogni esperienza, a partire dalla più pesante, e ti garantisco parlo perché ne ho vissute tante. Non mi chiudo dentro l'apatia che prima mi prendeva, anzi la trasformo, faccio in modo che sia la mia preda. Chiudo i pugni e combatto anche la mia depressione, che sovente è venuta fuori in qualche situazione in cui tutto mi sembrava pesare sulle mie spalle. Io ho capito che dovevo tirare fuori le palle e farlo da solo, perché nessuno mi era davvero vicino quando il male oscurava il mio cammino. Continuo la mia strada anche se spesso in salita, gioco questa partita finché non sarà finita. Ad ogni scontro, anche solo contro il mondo, io sarò sempre pronto. Continuo la mia strada anche se spesso in salita, gioco questa partita finché non sarà finita. Ad ogni scontro, anche solo contro il mondo, io sarò sempre pronto. Forza ne ho trovata e ne trovo ancora, e ne troverò sempre fino a che sarà suonata la mia ora. Quando il fumo offuscava la mia vista e l'abbandono di me stesso era il mio primo nemico sulla mia lista, mi lasciavo sprofondare in paranoia e fumavo 20 grammi al giorno consumato da tristezza e noia. Fino a che un bagliore dentro me si è acceso, mi ha mostrato come sarei diventato se mi fossi arreso. Non posso più far nulla per il mio passato, ma il futuro me lo posso ancora scegliere. È questo che ho imparato, la vita con i suoi colpi mi ha insegnato a prendere tutto in mano quando sono disperato. Quindi riprendo fiato e son già pronto per un'altra sfida, anche solo in mezzo ai guai attendo a pugni chiusi ogni sfiga. Quando arriverà io mi farò trovare pronto al prossimo scontro, anche se dovessi lottare da solo contro il mondo. Continuo la mia strada anche se spesso in salita, gioco questa partita finché non sarà finita. Ad ogni scontro, anche solo contro il mondo, io sarò sempre pronto. Continuo la mia strada anche se spesso in salita, gioco questa partita finché non sarà finita. Ad ogni scontro, anche solo contro il mondo, io sarò sempre pronto. Con le esperienze sono diventato forte, nulla adesso mi spaventa, sono pronto ad andare incontro alla mia sorte. Quando sbaglio reagisco e prendo tutto in mano, anche quando un traguardo mi sembra troppo lontano. Mai più perdere prima di iniziare a giocare, un altro errore così non me lo potrò perdonare. Cerco la forza per cambiare, peggio e meglio, non rimando, parto fin dal mattino quando mi sveglio, perché il tempo è denaro e questo è risaputo, perché sono tutti sordi quando piange chiedi aiuto. Solo con le mie capacità contro ogni avversità vivo ogni mia realtà in mezzo alle difficoltà. Ora sono preparato ad affrontare i miei problemi causati da un'esistenza che io vivo senza schemi. Super corazzato e pronto, ogni scazzo affronterò finché fiato avrò, mai più indietro io mi tirerò. Continuo la mia strada anche se spesso in salita, gioco questa partita finché non sarà finita. Ad ogni scontro, anche solo contro il mondo, io sarò sempre pronto. Continuo la mia strada anche se spesso in salita, gioco questa partita finché non sarà finita. Ad ogni scontro, anche solo contro il mondo, io sarò sempre pronto.